anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat, queste Basement Records che avrete intuito è in una puntata super speciale stasera, prima puntata di Basement Records improntata sulla musica elettronica, qui con noi un grandissimo ospite, una leggenda della musica elettronica toscana, qui insieme a noi, accanto a me, qui nella tana del Wombat, Lore J, che ci delizierà con un DJ set, ma nonostante le mie pressioni non se la sente di parlare, ma state sicuri che è qua accanto a me. E allora, prima di farlo partire, che lo vedo già qua con le mani calde e i vinili pronti, ricordiamo i nostri canali per mettervi in contatto con noi, ovvero il nostro sito, che è sempre radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie ormai che si sta espandendo oltre la provincia di Firenze, quindi state all'occhio e tenete sempre la vostra autoradio e le radioline in casa sintonizzate sull'1359 1359 in onde mediocri, come le chiamiamo noi qua in casa. E la nostra mail è postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Però appunto torniamo tosti a stasera, perché qua l'ora è pronto che con le dita che fermano il primo vinile di stasera, ovviamente essendo un DJ set così non metterò la tracklist della puntata, perché mai nessun DJ vorrebbe svelare i segreti della propria borsa, e ci mancherebbe altro. Quindi siate pronti stasera, qui con noi a una grande serata di musica elettronica su Radio Wombat. Lore, andiamo, partiamo, e parte il DJ set. Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Basement Records, Radio Wombat, Lore J, DJ Set, Special Night. Oh, Radio Wombat, Basement Records, Lore J, Special DJ Set, tonight at Radio Wombat. Thank you. There is no such thing as improper behavior. There is no such thing as bitter disappointment. There is no such thing as half-hearted promises. There is no such thing. There is no such thing as salvation. redemption. There is no such thing as past or future. As past or future. Past or future. There is no such thing as simmering rain. Basement Records, Radio Wombat, Lore J, Special DJ Set. Basement Records, Radio Wombat, Lore J, Special DJ Set.

Basement Records, Radio Wombat, Lore J, Special DJ Set. Thank you. Basement Records, Radio Wombat, Lore J, Special DJ Set. Questo era l'ultimo brano del DJ set di stasera di Lore J. Siamo arrivati qui alla fine. Lo vogliamo dire solo l'ultimo disco? Lo vogliamo svelare così, giusto per dare giusto per far capire, questo era The Terror Machine, The Emperor Machine, e questa era lato A o lato B, Lore? Ah, boh, non so, credo là. Quindi era The TV Extra Band, di un'etichetta che non c'è più, vedo preso, edito a Portobello Road in London, cioè... Questa è, voi avete sentito stasera solo e puntualmente solo il DJ set, ma è stato un enorme discorso di musica stasera, anche appunto per ringraziamento di aver fatto mio personale, di aver fatto arrivare la musica elettronica a Basement Records, che, come saprete probabilmente, da Tonight Alive è una delle mie grandi passioni, era ancora un ambito che dovevamo esplorare nei vinili di recupero, che in questo caso non sono di recupero ma appunto della sterminata collezione di Lore, che io non posso far altro che ringraziare immensamente per il tempo e il DJ set e per la musica che ci ha regalato stasera, per questo sabato sera, e non posso che rinnovare l'appuntamento, appunto, magari chissà una prossima volta se vorrà tornare, vorrà anche magari la prossima volta dire due cose, chi lo sa, vediamo, magari lo sentite in lontananza, essere c'è qui, la presenza si sente, l'abbiamo sentita, per me è stato un viaggio nel tempo, m'ha riportato nel sogno stasera, quindi non posso fare altro appunto che ringraziarlo nuovamente e darvi nuovamente appuntamento qui con le frequenze di Radio Wombat, con domani, domenica, con tutti i programmi in palinsesto, che come saprete, spero, è fittissimo la domenica a Radio Wombat, però sì, una degna chiusura, spero una perfetta partenza del sabato sera, anche se ormai ce lo fanno passare dentro casa, però è lo spirito quello che conta, e stasera abbiamo volato. E quindi non posso che salutarvi, augurarvi a tutti un buon proseguimento di weekend e un nuovo ascolto qua domani mattina con Container, con i programmi di Radio Wombat. Grazie tantissime, ciao. Lore, e un buon fine settimana a tutti. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore.